eccoci di nuovo. Da dove siete? A Piazza Venezia? Sì, siamo a Piazza Venezia. Si è conclusa. Conclusa la manifestazione. Che dire, migliaia di persone, oltre 10.000 persone legate da un filo rosso, da una maratona anche molto lunga, più di 8 chilometri. Abbiamo attraversato vari quartieri, San Lorenzo, Piazza Vittorio, per poi scendere a Via Cavour. La manifestazione è andata molto bene, è stato un universo di colori, un universo anche di linguaggi diversi, che ha imposto con forza delle lotte sociali, quelle che ogni giorno pratichiamo a Roma, gli spazi sociali, i movimenti di diritti all'abitare, ogni giorno praticano a Roma. Una manifestazione piena di migranti di diverse nazionalità che hanno preso la parola in maniera continua dai microfoni dei diversi camion che c'erano, una manifestazione che ha messo al centro anche i problemi reali poi che ci sono in questa città, cercando di disarticolare questo populismo del pacchetto sicurezza o della paura o della percezione di insicurezza. Abbiamo posto al centro della manifestazione le reali contraddizioni che si vivevano già durante le giunte precedenti e si vivono attualmente. A Roma vive il 15% dei precari a livello nazionale, c'è un'emergenza abitativa devastante, ci sono 270.000 appartamenti sfitti, ci sono 4 persone al giorno che muoiono di lavoro, e questo è stato un altro tema forte della manifestazione, i morti sul lavoro e non le morti bianche, quindi non sono morti per caso, per fatalità, ma sono morti di lavoro. E poi tutto il bagaglio culturale di lotte che i centri sociali hanno espresso negli ultimi anni, che sono dei veri e propri laboratori di conflitto in questa città e quindi non possono essere spazzati via. Mi senti, Gizio? Sì, sì, ti sto sentendo. Soddisfatti quindi anche della riuscita, della partecipazione a questo punto, e quali sono le prossime mosse, diciamo? A questo punto si apre un percorso anche di partecipazione. Oggi la manifestazione è stata partecipata da centinaia di migliaia di soggetti che devono partecipare ad un percorso che dobbiamo imporre in questa città. Non solo dire i centri sociali e le case occupate non si toccano, ma cercare di costruire poi e di affermarci come alternativa in questa città, alternativa rispetto a quello che ci viene proposto, quindi cercare di scardinare anche dei meccanismi d'aceto politico e cercare di agire nei territori in una forma anche congiunta, come si è lavorato in rete in questo momento, per cercare di costruire un'alternativa credibile e anche visibile. Oggi c'erano migliaia di persone a dire sicuramente no al governo fascista della città, non al pacchetto sicurezza, però oggi è un passaggio, è assolutamente una prima tappa di quello che ci aspetta in questi mesi. Penso che l'altra cosa che dovremmo, vuoto che dovremmo colmare, è quello, diciamo, di percorso insieme alle associazioni dei migranti, e questo anche grazie al fatto che poi le nostre occupazioni ormai sono a larghissima percentuale fatta da immigrati. No, sicuramente, anzi sono i protagonisti fondamentali della lotta per il diritto all'abitare in questa città. Oggi erano rappresentati. Volevo ricordare che il gruppo inchiesta del coordinamento, composto da compagni migranti e compagni delle occupazioni di case, oggi ha distribuito un pamphlet, un dossier di controinformazione ma anche di autotutela sul pacchetto sicurezza, un dossier distribuito in 3 lingue proprio per cercare di dare gli strumenti a tutti, soprattutto ai migranti, sulla legislazione vigente, quindi un po' di controinformazione e anche un percorso di consapevolezza fatto dai migranti. Quindi la partecipazione sicuramente va allargata alle altre associazioni fatte da migranti che si occupano di immigrazione a Roma. Volevo chiudere la cosa sicuramente ringraziando tutte le persone che sono state attive, hanno reso possibile anche una manifestazione così grande, e poi salutando Emiliano, che non so se ci sta sentendo, questa manifestazione era anche dedicata a lui, soprattutto per quello che è successo alla Sapienza e per le provocazioni che stiamo subendo ormai da parecchi mesi in questa città, non ultima quella che non gli è andata in porto, ma il tentativo di mettere una bomba vicino Agrobax nel portone d'entrata, che ricordo c'è stato tra il 12 e il 13 giugno, appena parlato, l'altra notte. Quindi un saluto e un abbraccio a Emiliano, E un saluto naturalmente a tutte le persone che sono state attive e hanno reso possibile questa grande manifestazione. Bene, noi ci uniamo ai tuoi saluti ad Emiliano, d'altronde ogni minuto, ogni secondo di questa radio è sempre dedicato a chi è privato della sua libertà, sia dal carcere che dai domiciliari, e quindi in particolar modo anche quest'oggi ad Emiliano. Ci sentiamo presto. Ciao, a presto.